sono sempre molto attento quando sono in radio. No, beh, non c'è problema, c'è un po'. Tutto a posto, poi la pandemia non c'è nessun problema, poi non è successo niente, tutto ok. C'è sempre questo attrito tra di noi, no? Non si riesce mai a capire il perché, comunque. Evidentemente la mia voce è fastidiosa. Ce la faccio a fine settimana, passo a trovarti.